Thank you. Thank you.

Thank you. solo di me, bisogna essere stessa con loro, e anche con loro la benissima di me, con le persone che non fa, con loro di me, e per il mio nome di me, la persona. Perché la prima c'è il mio, con la mia di me, e per il mio, per la mia, di me. E lo che non fa, non può avere la faccia. Presentemente non lo chiamo, in terzo anno, in terzo anno, insieme. Con la voce del terzo anno, in terzo anno, in terzo anno, in terzo anno, in terzo anno, in terzo anno, in terzo anno, in terzo anno, c'era la sinistra che non so come è il mio stato, però c'era anche la che non so se è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è la Thank you. I'm not saying that the Thank you.

Thank you.